riempiendo il vuoto starei meglio e provare a scordarmi, perché non si può dire quant'è che si sta male anche da piccoli. Nel mondo dei pulcini è grande pure un po', le grandi sono così ridicoli che pure un mezzo uomo sembra un pare che è un po' meglio di me, perché tranquillo e ride sempre. Così fatte sono le scelte e noi divisi ancora insieme, perché da piccoli si sente quello che hanno perso i grandi ed è la cosa più innocente chiedere perché e avere una risposta falsa purché sia decente, che copra quello che non si può dire chiaramente e ti hanno fatta crescere velocemente. Anima mia, il nostro presente tollera le aberrazioni e gli abomini quando è conveniente, venerando un Dio che gli permette di comprare ciò che non si può, sempre sulle spalle di qualcuno ovviamente, e casualmente cade sempre sulle stesse. Ed io e te ingenui che crediamo nell'amore, al giorno d'oggi che sciocchezze. Dov'è che voglio andare, scordarmi le amarezze? E tu pallina mia pronti a seguirmi nell'ignoto, nell'incubo più tetro, da dove ci hanno messo non si torna indietro. Dovrei svegliarmi, no? E dirmi anch'io che meglio, ma non lo farò, non ti mentirò. Riempiendo il vuoto stare meglio tra le fiabe di giocattoli, in un'enorme stanza della casa in giardino, dove non ci sono ostacoli a chi scrive il tuo cammino. Passo dopo passo forgiando il tuo respiro, ed io che vivo là d'un passo, ma non insieme a te come vorrei. Tutti i giorni quando torno a casa stanco, ancora sto ingoiando il pianto, ancora non ci dormo e penso ancora a te per un istante. Crescerai, riempiendo il vuoto, crescerai, riempiendo il vuoto, crescerai, riempiendo il vuoto, stanno a te, crescerai, riempiendo il vuoto, crescerai, riempiendo il vuoto, crescerai, riempiendo il vuoto, stanno a te, riempiendo il vuoto. Riempio il mio vuoto pure io e passa quasi tutto, tu la sola che non cade nell'oblio, tutto perduto il resto, ma adesso poco importa, aspetto sempre il peggio, quando arriva apro la porta, io non mi tiro indietro figlia mia, nemmeno questa volta, e fingo di star bene per te, te ne sei accorta, vabbè, sei sempre stata sveglia, è certo che lo vedi che è distorta questa merda. Paghiamo il prezzo di una scelta, la crisi esistenziale di una madre scontenta che si era persa, ma adesso sì che viaggia sulla retta via, mica come insieme a me quella vita era una porcheria. Non credo proprio, il fatto è che è molto comodo avere tutto quello che si vuole in un secondo, no? E non potevo dar di più in quel momento, forse non si vedeva ma lo stavo già facendo. Stavo imparando a fare il padre anche se avevo poco tempo da dedicare a te, lo sa Dio quanto ho sofferto vedendo andare via l'amore da una donna senza senso che ne ha trovato uno migliore. Ma tu non condividere il rancore, da qui non posso liberarmi in nome di questi miei 30 anni buttati al vento, ma con un senso dell'onore, sempre contestando l'ingiustizia di chi vuole riempire il vuoto per vederti stare meglio. Eppure non si spiegano alle volte il tuo silenzio che cela in sé mille parole, ma a me basta uno sguardo per capire come cancelli il malumore. Ed io lo butto dentro una canzone, perché così mi riempio il vuoto e un giorno avrò una spiegazione di quello che hai vissuto, dell'eterna nostalgia nella tua gioia e sottofondo di malinconia. Riempiendo il vuoto, crescerai, riempiendo il vuoto, crescerai, riempiendo il vuoto, crescerai, crescerai.